puntata 20, terza stagione. Sigla. Io. Realtà incunata, già so. Nella latrina sgorgante cadaveri non eccellenti però. Sorgon domande ma niente risposte ma poi. Mercoledì viene dall'etere sì. Pronto lo stomaco, pronto a ingoiare. Pillola rossa, pillola, pillola rossa. Pillola, pillola rossa. Pillola, pillola rossa. Pillola, pillola, pillola, pillola, pillola, pillola, pillola, pillola. Non sono io a non essere credibile, non sono io a dovermi giustificare. Voi rinchiudete la gente, la fate ammattire nelle fabbriche, negli ospedali, nelle caserme. Io creo sogni, voi li uccidete. Io parlo sboccato, voi nemmeno parlate la nostra lingua. Ci lasciate ai bordi, ci fate vedere donne che non potremmo avere, posti dove non potremmo entrare, cose che non potremmo comprare. Non siete diversi da noi, ladri e puttane vestiti bene. Voi ci rubate il tempo, che è l'unica cosa che abbiamo. Ci insegnate a tradirci, a non fidarci più l'uno dell'altro. Voi spacciate certe droghe nelle farmacie e ci arrestate se ne vendiamo altre. E noi ve lo lasciamo fare tutto questo, perché nella vita non c'è mai scelta tranne che in certi campi, ma mai in quelli importanti. Ma io non voglio essere un prodotto del mio ambiente. Voglio che il mio ambiente sia un mio prodotto. C'è una differenza immensa tra il fascismo e il comunismo, e la differenza è questa, che il fascismo è qualcosa che è nato in Italia, è durato 20 anni, ha contagiato altri paesi, ha assunto una forma molto più spaventosa nella Germania nazista e in tutte le sue forme comunque conteneva, ma anche proprio dichiaratamente, no? Era un'ideologia della violenza, della sopraffazione, della gerarchia, dell'autoritarismo, che molti vedevano come cose buone e giuste, però era quello, e del razzismo, era esplicitamente questo. E gli orrori che le dittature nazifasciste hanno commesso, li hanno commessi realizzando ciò che avevano sempre detto di voler fare. Il comunismo purtroppo è stata un'esperienza tragicamente fallimentare, perché dove i comunisti sono andati al potere quasi ovunque hanno creato regimi fallimentari e in certi casi anche spaventose dittature, non c'è il minimo dubbio. Ma il comunismo è stato anche la fede di milioni di persone in tutto il mondo che non sono mai andate al potere, che non hanno mai creato dittature, che sono state perseguitate e massacrate per un secolo in tantissimi paesi e che sentivano di lottare per la giustizia, per la democrazia e per la libertà. E allora, i comunisti sono anche loro. Mentre i fascisti o i nazisti sono solo quelli lì, non ci sono quelli che non aderiscono a ciò che le loro dittature hanno fatto. Thank you. nei locali della zona autonoma Milano, dagli studi di Radio ZAM, grazie al supporto di A Club Unite, trasmettiamo in diretta la 20ª puntata di Pillola Rossa. Io non ci sono più, io non ci sono più perché spippolo on. La 20ª puntata. Puntata pre-25 aprile, anticipati da Pillola Elettronica, che è entrata di... a gamba tesa, un grande ritorno di Pillola Elettronica, ragazzi. Ma ragazzi, gran sound comunque, adesso dovremmo aggiustare un po' gli audio, perché ovviamente, come al solito, siamo entrati un po' all'ultimo momento e insomma... macchinette che non funzionano, è tutto fatto in casa, no? È tornata la squadra tecnica, sono tornati i tecnici, è tornato ricomprato dall'Eurospin per 0,000. Sì, è un prestito senza riscatto. Allora, vabbè, pre 25 aprile, quindi ci sono, vabbè, post manifestazione del 18, perché comunque due parole su, l'abbiamo detto la settimana scorsa, però sul Patriots Day bisogna comunque dirle, ovvero manifestazione, dicono giornali, non io, fallimentare un po' a livello di partecipazione in Duomo, ma insomma con i soliti contenuti, contro manifestazione che... è stato un po', non lo so, un divaga, nel senso che una parte è andata da un'altra parte, una parte è andata dall'altra. Quindi... l'annoso discorso valeva la pena o non valeva la pena? Un po' come Genova 2001, era più bello trovarsi tutti a Parma e lasciare a Genova 200.000 poliziotti, uguale lasciare 1.500 sfigati da soli in Piazza del Duomo, oppure puntini puntini? Annoso dibattito. Annoso dibattito, certo. Una risposta uno, secondo me, la dà, è giusto darla. È anche vero che, cioè, da un certo punto di vista sembra una telefonata, no? Pronto, pronto. Comunque, detto questo, ZAM ha partecipato come tutti gli altri collettivi, manifestazione deviata in Piazzale Lodi, non capisco, penso per troppa affluenza, non ho idea. E niente, sostanzialmente aspettiamo quella di dopodomani. 25 aprile in Piazzale Cuoco. E questo è un anticipo, no? Sì, prima c'erano gli Schiantos. Giusto per. E adesso gli Addict. Ameba. We'll be right back. scusate, io volevo salutare Sighi. Ho avuto la notizia l'altro giorno che se n'è andato. E è successo quest'inverno e invece io l'ho saputo 2 giorni fa. E io l'ho saputo ora. Allora, su questa sfera che rotola su se stessa e viaggia su un'orbita a velocità impressionante, ci sono delle creature che ogni tanto con la loro presenza, il loro sorriso, ti danno la gioia di essere qua. E c'è anche qualcuno che, nonostante si sporchi in tutte le maniere, rimane sempre pulito, immacolato e lindo. Ciao Splix. Ciao Splix. Vedi, perché io non ho fatto figli, non mi sono sposato, non me ne frega un cazzo, perché poi è penoso, capito? Io devo badare a me stesso, poi alla fine i miei genitori ormai sono vecchi, in teoria bado anche a loro, ma è tutta una scusa per fare i cazzi miei. E poi come va, che cazzo me ne frega ormai. Come diceva Gino Paoli, che è morto un grande, ma quando sei vecchio è il massimo della felicità, tanto mal che vada puoi morire, che cazzo te ne frega, sei arrivato alla fine, fanculo. Quando il prefetto di Massa mi annunciò che l'eccellenza vostra aveva deciso di inviare a Sarzan il viceprefetto di Genova Rossi per sostituirmi nell'opera di pacificazione, non potei fare a meno di riconoscere in quella decisione un cambiamento di direttive a favore del movimento fascista. Servite pure. È la sfungata, il dolce tipico di Sarzana. Squisito, ma micidiale per la linea. Mia cara, l'unica linea per la quale io temo è quella del cuore. Dottor Rossi, che ne è dell'ispettore Trani? Ma le sembra questo il momento? Per noi giornalisti è sempre il momento. E va bene. Trani è giubilato. Io assumo le sue funzioni, particolarmente quelle politiche. E questa notizia quando potrò darla? Il 6 agosto, non prima. Tassativamente. E perché? Dia il tempo a Trani di arrivare a Roma. E di restarci. Let's go, battle! A Brooklyn, God, we stand for free, we party, this king has a uno dei motivi per cui l'Italia non si è classificata ai mondiali, e lo sappiamo. Cosa succede? Cos'è che fanno i calciatori? Vanno a Cinisello Balsamo e fanno coca e mignotte tutta la notte. E poi uno si lamenta che non si classifica ai mondiali. Ma che cazzo vuoi, coca e mignotte tutta la notte? Ma invece a discolpa non c'erano solo quelli di calcio, perché c'era anche quelli di hockey, che non ho capito sinceramente, visto che l'hockey in Italia è inesistente, cioè sei imbucato quello dell'hockey. C'era anche uno di Formula 1. C'era anche uno di Formula 1, sì. Assolutamente vero. Non sottilizziamo, dai. No, vabbè, volevo rendere partecipe anche che, insomma, c'era un bel gruppetto eterogeneo, ecco. E a proposito, Michele Senese era un ottimo amico mio. Qual era il ruolo di Michele Senese su Roma? Era uno dei primi camorristi a comandare su Roma, collegato con tutte le famiglie romane, calabrese e siciliane. Per conto di Michele Senese e del suo clan, Gioacchin Amico partecipava ai summit con i capi delle locali di 'Ndrangheta e con i referenti di Cosa Nostra, a partire da Paolo Errante Parrino, originario di Castelvetrano, ma trasferitosi da anni ad Abbiategrasso, dove gestiva un'azienda di macchinari per la ristorazione e un bar in Las Vegas. Signor Parrino, salve, sono Giorgio Mottola, sono giornalista di Report, la trasmissione Rai 3. E allora? Volevo fare due chiacchiere con lei. No, niente. Volevo... Niente. Che volevo chiedere di questa inchiesta. Ma quale inchiesta? Fateva una camminata, va, dai. Volevo soltanto fare senza qualche domanda. Senza registrare niente, perché mi apro la testa in due, eh. Fuori dai coglioni, dai. In faccia. Dai! Ora! Andiamo via. Ora! Quelli di prima erano i Pavel da Bari. Quelli di adesso, anche se il tempo è sbagliato, cioè di poco fa, erano le Faxia, altro band che suonerà il 25 aprile, featuring Fillingende Halle, che è questo gruppo tedesco che ha fatto una canzone in italiano, che questa è una collaborazione, però aveva già fatto la canzone. E Wurstraminer. Punto di vista, l'Unione Europea, come dicevo prima, è il compimento di questa logica di dialettica del capitalismo, perché il capitalismo mira, come anche dicevo prima, a superare ogni limite. Lo fa nel 68 liberandosi dei limiti etici e morali, lo fa nell'89 liberandosi del limite dell'Unione Sovietica, limite geopolitico, e con l'Unione Europea si libera dell'ultimo grande limite, che è lo Stato nazionale sovrano, pur con tutte le sue contraddizioni, il quale Stato nazionale sovrano implica pur sempre la preminenza del politico sull'economico, ciò che appunto l'Unione Europea ha destrutturato imponendo la sovranità assoluta del mercato e di quegli enti, avrebbe detto Marx, sensibilmente sovrasensibili e pieni di capricci teologici, che sono la banca centrale e le camere chiuse degli economisti che decidono in nome dei popoli. Per cui l'Unione Europea è effettivamente il compimento del capitalismo assoluto e di un'economia ormai spoliticizzata. Detto questo, bisogna però operare con attenzione quando si usano queste categorie. Chi vi parla è un fermo sostenitore dell'idea di Europa, ed è peraltro in buona compagnia con giganti del pensiero come Husserl, come Kant, come Erasmo. Però appunto è proprio in nome dell'idea di Europa che occorre criticare puntualmente e severamente l'odierna Unione Europea, che di quegli ideali è, ai noi, un perverso rovesciamento. Per cui oggi il discorso dominante, politicamente corretto e mediaticamente manipolato, continuamente mira a sovrapporre il piano della realtà effettuale con il piano dell'ideale, presentando la realtà effettuale come se fosse il compimento dell'idea di Europa, laddove invece ne è il più triste pervertimento. Ragion per cui occorre criticare questa Europa, lo dico molto rapidamente, a partire dall'idea dell'Europa. L'Europa, storicamente, se noi la analizziamo, esiste come arcipelago di differenze, come pluralità dei popoli e delle lingue, come pluralità al cui interno ogni popolo esiste nella propria identità e insieme nella propria appartenenza all'idea di Europa. Molto semplicemente, nell'idea di Europa risiede il... Ma sì, ma comunque si sa, la bamba dà, la bamba toglie. Comunque quella che fa mangiare, quella che fa scopare, quella che fa dormire, fatevela voi. Perché io voglio stare sveglia, io voglio avere le paranoie, io voglio stare ingessata, io voglio il taglio. Voi no, vuol adesso scivolo salendo, ma tocco io ne affiglio. Se mi aiuti due volte che mi porta a far del male, lo sento io ti puoi entrare e mi tendere la mano. E poi tirare la via, e tendere la mano, e poi tirare la via, e vederti divorare anch'io tanto stesso male. Anche volendo non sarò mai parte di voi, voi no. Questi erano i Piscio Sangue, giusto per essere punk, giusto per omaggiare Splix, che tutte le volte che sono andato da Pischello a suonare in quei dintorni autarchici, c'era sempre in cortile a fare non so cosa, però... Allora, notizia di Milano, restiamo a Milano... Questa riguarda il sindaco Sala e di questa, diciamo, articolo che ho estrapolato, che si parla di permessi speciali, si parla che sostanzialmente a Roma è stata approvata una mozione, questa mozione è per dare in campo edilizio dei poteri speciali, quindi è stata votata da entrambe le parti, giusto per onor di cronaca, quindi destra e sinistra, e Milano insomma vuole spezzare questa cosa, quindi edilizi e trasporti. Quindi Milano e le elezioni del sindaco sono nel 2027, quindi alle porte, e c'è la particolarità che, essendo Milano, quindi città metropolitana di Milano, chi abita un po' fuori non voterà il sindaco proprio, perché essendo questa città metropolitana di Milano, avrà un superpotere il sindaco di Milano in ambito di edilizia e trasporti. Quindi sono le solite cose che, insomma, sostanzialmente riguardano il costruire e l'inquinare, diciamo così, in parole spicce, ecco, diciamo. Quel sindaco di Milano, quello delle piscine chiuse, quello dei teatri chiusi, quello del palazzo del ghiaccio abbandonati, quello degli abusi edilizi, quello che non ha fatto pagare gli oneri di urbanizzazione alle multinazionali straniere a cui ha svenduto i nostri beni pubblici, e che questa settimana ha ratificato il gemellaggio Milano-Tel Aviv. Tel Aviv, dove quell'altro indegno di Milei è andato in visita ed è stato accolto con tutti gli onori, e dove quegli altri schifosi del governo ucraino continuano a mandare droni e armi elettroniche messe a punto, che vi leggiamo un attimo da una notizia del 2025 di luglio. La Premier Meloni dice alle aziende italiane: fatevi avanti, non abbiate paura, in Ucraina ci sono delle opportunità da cogliere ed è il momento di farlo. Roberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo, ha colto la palla al balzo 6 mesi fa. E ancora 6 mesi fa si diceva che dai 12 ai 35 miliardi di dollari, in modo che Kiev può triplicare la sua produzione militare da vendere a tutto il mondo. Ne abbiamo già parlato, la nuova Israele, il nuovo killer mondiale fatto coi soldi dei militaristi europei. E a proposito di militarismo, in Italia invece c'è un coordinamento antimilitarista che a Livorno ha bloccato la nave degli americani che trasportava le peggio cose, e i ragazzi del coordinamento sono andati a bloccare la nave il 18 di questo mese, e noi vi facciamo sentire com'è andata. Vi facciamo sentire, sì. La movimentazione di armi non è un pubblico servizio, qui non siamo negli Stati Uniti, qui è casa nostra, a Livorno le armi vadano da un'altra parte. E questo è lo Stato italiano che come c'è un problema degli americani interviene subito. A sedere, ragazzi, a sedere. A sedere. Ma chi sta scherzando? Alzati. A sedere. Non mi posso alzare. Iniziamo a portare questo qua, due. Un po' due, su due e mezzo questo. Il due lui non è la maniera. Questo succede quando proviamo nel nostro porto a evitare che passino le armi. Lo sapete cosa sta, cosa c'è in quella nave? Lo sapete cosa c'è? Noi lo sappiamo cosa c'è in quella nave. Ci sono mine, ci sono munizioni, c'è tritolo, capito? È questo che state facendo voi. State difendendo lo Stato americano. State difendendo lo Stato americano. Mi fai male così, mi fai male. Oh, ma che cazzo fa? Oh, oh, oh. Che cazzo fai alla barra? far viaggiare al di sotto di laguna. Mi che non sono una pantegana, vedi con che te più de puttana che te un progetto da 10.000 miliardi, va tutti scarselli, chi bastardi e ni altri che semi veneziani, in entrata da più dei cani, allora è un incitamento alla rivolta, perché speriamo che avanti questa volta non ti facciamo abbindolare, infondiamo tutti quanti questa mare, no che se, no no no no no no no che se, no no no no no no no che se. Nel 2025 l'Italia ha vissuto un periodo di stagnazione, uno stagno economico che non si sentiva neanche le rane. E meno male che c'era il PNRR, se no andavamo sotto zero. L'hanno percepito tutti, tranne quelli che leggono Libero, ovviamente. Ma Piazza Affari ha fatto affari d'oro. Perché? Perché ci sono settori in forte crescita. Bombe, aerei, cacciabombardieri, missili, sistemi di puntamento laser, che sono quelli che rompono i coglioni all'attaccante quando tira il rigore. Lì siamo andati tanto su, tutto fa brodo nel grande calderone del PIL. Ma dipende da come girano, io ne ho due, tre, uno una volta ce l'ha meglio, uno ce l'ha un po' più schifoso in certi periodi. Diciamo che vado da quello che ce l'ha migliore al momento, ma adesso quello che ce l'ha migliore al momento è quello che mi fa anche un 25, che dai 30 giro, ma sono 0,3, del cazzo. Però è un albanese, non c'è male, diciamo, è leggera, cosa vuoi che sia, però il fatto è che almeno non ci butta dentro tutta quella porcheria che ti schizza. È quello che fa la differenza, che a me quella roba lì che proprio a molti gli piace, ma ai ragazzini piace, ma a me fa cagare. Buonanotte Fra. Non è facile rifarsi un'identità, tutto sembra come in un romanzo di Philip K. Dick. Non è facile rimanere se stessi in una grande città, tutti ti vorrebbero qualcuno che non sei mai stato tu. Compagna vita, percorriamo un po' più in fretta il tempo che ci resta e vedrai. Sarà bellissimo, ma com'è bella la luna quando si muove tutta nuda lentamente nel buio, come fosse a casa sua. Com'è bella la luna, sembra che il mondo aspettasse. Non è facile rifarsi un'identità, tutti contro tutti, ognuno come sempre per i fatti suoi. Ma com'è bella la luna quando si muove tutta nuda lentamente nel buio, fosse a casa sua. Non è facile, non è facile rimanere se stessi quando tutti ti vorrebbero qualcuno che non sei mai stato. Tutti ti vorrebbero qualcuno che non sei mai stato. Tutti ti vorrebbero qualcuno che non sei mai stato tu. Com'è bella la luna quando si muove tutta nuda lentamente nel buio, come fosse a casa sua. Come sei bella tu, quando cammini per le vie della città, sembra che il mondo fosse solo te. Это было слышно по заявлениям Мерца. Это было слышно по заявлению «Вергоньи для раца умана! Бести натурали! Идиота патентата! Джорджио Путта Мелони!» «Ки брутта донуччя! Катива!» Вот эта Мелони, фашистская тварь, предавшая своих избирателей, потому что шла совсем с другими лозунгами. Ну, предательство – это ее второе имя. Она предала и Трампа, которому до этого клялась верности. Но не bisogna discutere questo punto di vista. Questo è una realtà vera. Allora, ovviamente... Pillola Rossa si dissocia dal putta Meloni perché gli epiteti sessuali, femminili, ma anche maschili è una cosa che ripudiamo in toto. Quindi questo era il comunicato che veniva dalla madre Russia riguardo alla Presidente del Consiglio italiano. Sì, in doppia lingua. In doppia lingua. E, allora, i pezzi di prima invece, che insomma li diciamo perché non li abbiamo nominati, quindi Puttura Fresca... con Venezia, Duri Banchi, album del 1994. E per Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, Per le vie della città, che allora l'abbiamo messi principalmente perché gran gruppo e seconda cosa suonano domenica qua a Milano, Arcibellezza, e tra l'altro da vedere tantissimo l'ultimo film in cui è protagonista lui, che è Le città di pianura. Adesso, se avremo occasione, nelle prossime puntate manderemo anche magari la colonna sonora che è fatta da un ragazzo di quelle parti là. Comunque la storia è una storia, un road movie, un total ubriaco per le vie del Veneto, insomma è totale. Per quanto riguarda gli eventi, primo evento, stavamo discutendo prima fuori onda, è il fatto che abbiamo un canale pubblico Telegram. Allora si chiama, adesso vado a vedere per dirvi proprio la denominazione, quella corretta, Pillola Rossa Zam, staccato, pillola, staccato, rossa, staccato, Zam. Dovreste accedere. Adesso noi non siamo tanto digitali. informatici e digitali, però dovrebbe succedere, visto che settimana scorsa, senza sapere perché, ci ha chiuso il canale, la direzione di Telegram, ne abbiamo aperto un altro, non c'è problema. Stessa denominazione, qualcosa di diverso. Allora, a parte questo, altro, vabbè, i concerti, c'è comunque il raduno del 25 aprile di partigiani in ogni quartiere, che è al Parco Alessandrini, quindi in Piazzale Cuoco, zona Calverate, a cavallo con Corvetto, diciamo un ponte li separa. I gruppi li stiamo un po' mettendo stasera, qualcuno sì, qualcuno no, Valanzasca, Casino Royal, Dictameba, Faxia, c'è il coro delle Femina, ci sono molto bravi, non li abbiamo messi perché sono francesi e sono i Bakir, è un gruppo franco-palestinese già visti e vale veramente la pena di vederli. Le giardiniere invitano domani, giovedì 23 aprile alle ore 18, in via Cancano, presso il Parco delle Cave, per un mappa tour tra Residenze LAC, Piazza d'Armi, Magazzini Militari e Ospedali Militari. Propone un esercizio di immaginazione. zero consumo di suolo, riuso dell'esistente e progettazione partecipata. Si concluderà con aperitivo al centro sportivo Visconti. Rialgiona sa podeta scuol, Duranculet, Alauberghe, FBL, fode le balle, Alau Yoranch. Beppi, inclusivo, un passaggio col mulo in de ponte off costa Volpino, smol al freno, maia turte with sangue, arda mal sul mus, la gase de campo grande, barra busa, che ingoi molto peggio, c'ho miglior mezzo fuor agricolo passeggio, tinelli loi alter pe, giro e lino, mi raspa giù a nascia in terrascia col vino, podeta squad con il ferrico affilato, domin de stadio, sing song for diffidato, drink mega fiaschi dal pol, hate bergamaschi, not roll. In the panda, tu fast for forestale, FBL in destradina provinciale, take a drink dal maici, grappino artigianale, halli dal franchino, head and all, he ciampa male, lule mia lucido, ma diga il mio perché, le de bossico, è veri 70, malte spacca, mo la crapa with the massa, va messa al bestemmie, se che passa, na galina, frank, 20.000, che era mo la lira, il flober puntato, ma non puoi tuonare, a Cesare il cinghiale, uscito da un pagher, come un vero embastumer, peso stimato 2,60 a 5 in concarena con una lince al fer del tornio al ve comunque fa de terra in alto forno camugna squad base ad angolo e da un furro caso sei col burro e non discuto il lavoro più lurido le carga il caretto cantere muletto mi avvindi il folletto te mi abute te doperà le falciatrici amici amici e poi te inculo anche la bici. La particolarità dell'Italia è che abbiamo questa schizofrenia bipolare che ci permette di andare in chiesa e nel contempo di odiare i bambini degli immigrati. Ci permette di parlare dei valori del cristianesimo e nel contempo di tenere il busto di un razzista sfascista sulla scrivania. Ci permette di dare i nomi dei capi indiani ai nostri figli, ma poi di leccare il culo a quelli che li hanno massacrati, gli indiani. Questo paese è brutto, ma sa truccarsi bene. E in un paese in cui la gente ha il senso dell'orrido, ma continua a vantarsi di opere d'arte che ormai è incapace di inventare, in un paese in cui il brutto è il paesaggio, ma nelle pubblicità idiote del preserale è tutto un idillio di colline fiorite, di passerotti cinguettanti, in un paese insomma in cui si vive malissimo, ma tutti se la passano bene, il segreto del prodotto interno lordo è la corruzione, il peccato, l'errore. Ah, qui, cioè, penso che sia 10 centesimi, una roba del genere, l'acqua, un litro, non so se è quella naturale gratis, penso sia quella gassata, 10 centesimi, ma era, non lo so poi bene perché io non ci vado, ho sentito dire così. Costa pochissimo, comunque non lo so, io bevo quel rubinetto e di gasato bevo la birra, quindi non risparmio molto perché mi bevo la birretta, adesso vabbè non è che costi moltissimo, io vado sulla birra 11 paralleli Conad, quindi c'è una buonissima rossa adesso che la fa la Ceres che costa 99 centesimi, e strong però di qualità, e quella è buona, no? le solite cagate, birre schifose, quelle straforti, merda. Sicuramente proveremo la 11 paralleli Conad perché incuriosisce parecchio. Questi sono comunque i contributi del nostro imperatore che raccatta gli umori in giro gli accatta. Scusate, abbiamo trasmesso per le vie della città di Pierpaolo Capovilla e i cattivi. Sì, no, quello l'abbiamo trasmesso prima, avevamo trasmesso in De Panchine questa coveraccia dei Pavel. No, non erano i Pavel, scusate, erano ragazzi, i Podestà Squad. I Podetta Squad, non è Podestà, Podetta Squad in Te Cascine, esatto. Dalla Valcamonica, per cui l'abbiamo trasmessi. Allora, due notizie internazionali e non. Allora, incredibilmente in terra francofona le amministrazioni hanno deciso di mollare Linux, cioè no, scusa, di mollare Microsoft per tutti gli apparati informatici della pubblica amministrazione ed utilizzare l'open source Linux. Questa cosa abbastanza, cioè, ha creato abbastanza stupore, però accolta a pieno regime, diciamo. Rivoluzionaria. I franzosi, per quanto franzosi, odiati in quanto franzosi, perché sono degli schifosi anche loro, ma hanno dei colpi di genio che non bisogna mai sottovalutare. Assolutamente, sono quelli che hanno iniziato con una rivoluzione che ha ghigliottinava i re 300 anni fa, che ha messo a ferro e fuoco il potere. Da lì in poi, insomma, vivono un po' di rendita su questo. Però la Comune di Parigi, la banda Bonneau, insomma, ci sono degli esempi positivi che vengono dalla Francia. Sì, ogni tanto buttano fuori qualcosa, e questa è una delle cose che effettivamente molto molto positive, distaccarsi, anche perché ormai di open source ce ne sono e la potenzialità è praticamente uguale. Ecco, magari, cioè, a livello informatico c'è da prendere qualcuno bravo, perché Linux, essendo un sistema molto protetto, cioè non c'ha i canali completamente aperti, quindi non c'ha tutti questi permessi, ma queste sono cose informatiche che non... Dici invece dell'altro dettaglio dell'NSE? L'altro dettaglio dell'NSE in realtà è, cioè, si parla sempre di tecnologia, e questa cosa qua è un... cioè, l'hanno detto tempo fa, in realtà, cioè l'NSE sarebbe il nucleo americano sostanzialmente, e ha suggerito di spegnere lo smartphone una volta a settimana per rafforzare le difese. Però, quindi, se lo dico agli americani, e contribuire alla lotta degli attacchi informatici, quindi la cosa non si capisce tanto bene, nel senso che, ok, come difesa spegnerlo, perché ormai non lo spegne più nessuno praticamente il telefono cellulare, quindi tutti lo tengono acceso e tutti non lo fanno mai scaricare del tutto, quindi solo che tenendolo sempre acceso alcuni virus comunque non mollano mai, invece spegnendolo magari non trovano l'attacco informatico per partire. Però la cosa che arriva dagli Stati Uniti vuol dire che ormai siamo praticamente spacciati, non so. Codino. Cioè, vuol dire che ormai siamo nel punto di non ritorno, e allora quando c'è l'onda altra 10 metri dicono salta. Sì, ragazzi, però sedie e sgabello quest'anno al mare no. Ragazzi, Tarzanel. Dopo vi diciamo l'altra sull'intelligenza artificiale, però dopo, Sento che qualcosa sta spingendo nella pancia. La forza del re di Francia, grande bastimento che dall'argine si stacca. Vuole, vuole, forza, la roba è franca. Vuole, vuole, forza, la roba è franca. Vuole, vuole, forza, la roba è franca. Vuole, vuole, forza, la roba è franca. C'è qualcosa dentro che vorrei uscire. Forse per gli occhiali o forse sono più. Forse sono galline chiuse strette in una sacca. Forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, forse, Allora, ore 10, parte Ulisse contro tutti, nuova puntata dalla plurinominata Anthony Perkins Production. Regali del caso è il tema, relativo a quando degli incontri casuali dovuti alla pura sorte o a decisioni che escono dalla volontà dei singoli musicisti hanno prodotto dei suoni che una volta incisi il pubblico ha potuto ascoltare. Beh, pisa merda. Volevo introdurre il prossimo pezzo. L'altra sera mi è capitato di sfogare le mie frustrazioni su internet, che era una vita che non ci andavo, e vi devo dire che tutto quello che ho visto sulla rete erano video e filmati di violenza, immagini di guerra, immagini di guerriglia, immagini di poliziotti che picchiano gente, e immagini di come picchi il Maranza, e immagini di come picchi quello e di come picchi quell'altro. Cioè, tutti i video su schermate e schermate riguardano vari episodi di violenza. E a questo punto noi citiamo Artificial Kid con Danno e degli altri signori che adesso ve li andrete a cercare, che hanno contribuito, e questa è Rollerball. Gente è strana, si odia, si ama, si accoltella la schiena, poi si perdona e si richiama. Arriva il fine settimana con la smania di apparire viva, schiava del riflesso in cui si ammira, s'atteggia e respira l'aria che lei stessa inquina. Se gli gira male parte e te regala una cinquina. Già dalla mattina nel mattatoio globale fa un caldo tropicale, non c'è sta un cazzo da guardare. Uguale in città, fra promesse e scommesse, debiti e tassi di interesse, Xanax in compresse per la felicità. Passa il tempo ma le storie qua sempre le stesse. La gente si nervosisce, prova ma non ci riesce, più ci sbatte la testa e se desisce. Esce in cattività da una vita in cattività, più passa il tempo qua meno si fida. S'appiccica per niente, ogni cazzata è una sfida. Grida per il sangue come dentro alla corrida, senza più speranza in mezzo a sta mattanza in cui se balla come se fosse una danza suicida. È Rollerball, il nuovo sport estremo mondiale, se gioca fasse male. Rollerball, fino al capitolo finale, zio, la mattanza globale. Rollerball, il nuovo sport estremo mondiale, se gioca fasse male. Rollerball, fino al capitolo finale, zio, è la mattanza globale. Rollerball, il nuovo sport estremo mondiale, se gioca fasse male. Rollerball, fino al capitolo finale, zio, la mattanza globale. Rollerball, il nuovo sport estremo mondiale, se gioca fasse male. Rollerball, fino al capitolo finale, zio, è la mattanza globale. Rollerball è una violenza nata come valvola di sicurezza del nostro sistema. Il suo scopo è soltanto questo. Il ragno Sabine che si va a podere con schede firmate da prede incollate alle tele. Ci sa fare, la Vespa gli concede l'alveare. Abbiate fede, le cose stanno per cambiare. Vaneggia, vive in una reggia e cicaleggia d'oltranza, comizi della sostanza di una scoreggia. Mostra cimici, cita saggi e si pavoneggia. Noi scarafaggio all'oscuro di ciò che maneggia. Si ribella la formica rossa che rissa con la nera che la manganella quando passa. Come un fuoco la sbattono in cella se scassa, specie se alla cresta e non la passa. La mosca verde, ebra di merde, si perde spesso tra le stronzate del congresso. Scarica le moschezze zè nel cesso, che nessuno può stare nel soggiorno senza permessa. Vieni a vedere su, vieni a vedere i meravigliosi insetti del potere. E se ti chini ma non riesci a vedere, insetti inetti per molti aspetti, asettici mani caretti per i rettili, chiusi in parlamenti come tarli nei cassetti, talmente assenti che li prendi per suppellettili. Hanno vite piatte come blatte, piattole nelle patte, di notti con lucciole nelle bettole, sparano sciami di frottole ma nascondono le pallottole come zecche tra le setole, come i coleotteri fanno i brillanti, se tu con amanti mandi di comandi di diamanti e i grilli, luci di cantanti, di dilli ammutoliti da insetticidi epuranti, di bruchi benestanti che pagano crisali di perali di farfalla ma restano ripugnanti, alibi da libellule stagnanti che andando avanti fanno più ammutinanti che nel bounty. Vieni a vedere su, vieni a vedere i meravigliosi insetti del potere, e se ti chini ma non riesci a vedere, tutto normale ti sono entrati nel sedere. Vieni a vedere su, vieni a vedere i meravigliosi insetti del potere, e se ti chini ma non riesci a vedere, tutto normale ti sono entrati nel sedere. Edizione straordinaria del potere della sera. Il neon, imbizzarriti come Taffani su cavalli da rodeo, volano paroloni che nemmeno Scarabeo, e lui, mara mia, non li ha cagati, pensa al suo team di coccinelle che celano i risultati, certi grattacapi noiosi li affida pidocchiosi avvocati che rani dal buco ne hanno cavati, quindi c'è chi lo vuole sottoterra all'ombrico, chi gli piazzerebbe un bombo sull'ombelico, chi come una lumaca se lo suca e chi si accontenta di dargli una cavallettata sulla nuca. Vieni a vedere su, vieni a vedere i meravigliosi insetti del potere, e se ti chini ma non riesci a vedere, tutto normale ti sono entrati nel sedere. Vieni a vedere su, vieni a vedere i meravigliosi insetti del potere, e se ti chini ma non riesci a vedere, tutto normale ti sono entrati nel uno che si chiama Fico alla RAI, che quest'anno aveva un rimborso spese di 30.000 euro per la vigilanza, sai quanto ha speso? 183 euro. E beh, secondo me ha fatto una crestina di 2-3 euro. Bene. Ma vero, so, ti abbiamo raccontiamo bisogno... che dimmi, cosa vogliamo sì, fare. Dimmi. Nelle prossime, diciamo nei prossimi 4 mesi, noi abbiamo il semestre europeo a luglio. E avendo il semestre europeo a luglio, l'obiettivo è quello di arrivare a questo appuntamento per ragionare di un'Europa diversa. Non credo che la pensiamo allo stesso modo, però vogliamo anche noi cambiare l'idea di Europa e provare a farlo avendo sistemato le cose in casa, avendo fatto i compiti a casa. Che significa? Uno, portiamo in discussione al Senato, sì, al Senato giusto, il disegno di legge Del Rio sulle province, su cui alla Camera voi vi siete espressi, avete fatto ostruzionismo. No, forse non avete fatto ostruzionismo. No, avete votato contro, chiedo scusa. No, perfetto. Posso interrompere un sacco, perché i piani, no. I programmi... Aspetta, fammelo dire prima, poi mi ma perché dopo. I programmi non sono venuto qua a parlare di programmi. I programmi non sono si in gioco ballo un po' adesso. Per uno, beh, però bisogna parlare io, poi parlate. Facciamo un po' per uno per correttezza. No. No, dai, non è possibile. No. Mi fai finire aspetta, di io, parlare... No, e io, poi dico, io dico questo. Io sono venuto qua per dimostrarti qualcosa in una maniera educata, gioiosa, emotiva, appassionante, ed è la prima volta che mi succede di non dare la fiducia a una persona come te, ma non perché sei tu, per quello che rappresenti. Tu rappresenti le banche, i poteri forti, dici una cosa poi la smentisci il giorno dopo. Sei un ragazzo giovane ma nello stesso tempo vecchio. Io ti ho preso molto in giro, se ti sei offeso mi dispiace. Vale, offeso. Ci siamo fatti ma, delle battute mai, insieme. No, però tu sei mai offeso in vita. Noi siamo all'opposto vostro. E io ho sorriso all'opposto vostro. Noi siamo i conservatori qua. Noi vogliamo l'acqua pubblica, tu la vuoi privatizzare, vuoi vendere l'Eni, vuoi svendere la nostra sovranità, noi la vogliamo mantenere. Tu parli di Europa, ma l'Europa va cambiata perché si cambia in Europa per cambiare l'Italia. Ci arriviamo subito su tutti i punti, ti chiedo ma soltanto io un non passaggio. Voglio... Scusa. Stop. No, però questo non è il trailer del tuo show, Beppe. No, no, non è uno show. Non so se sei in difficoltà sulla prevendita. Ma vorrei che prima tu ascoltassi. Se sei in difficoltà sulla prevendita, sì, ti diamo una mi mano. Mi dai una mano, dai. Questo, fammi una cortesia. Questo non è Sanremo. Ma ti mando degli omaggio. Questo no. Noi vogliamo presentarvi il nostro programma e anche proporvi un'alleanza. Sì, per fare più gruppo, per sì, insomma, la coesione. Sì, per stare coesi, anche consapevoli che siamo una minoranza, però potremmo aprire quegli orizzonti che magari non sono ancora. Dai, su veloce che mi sono già rotto il cazzo, su. Okay, questo è il nostro programma. Eccolo qua. Allora, acqua pubblica. Sto cazzo. No a nucleare e trivelle. Sto cazzo. Eliminare Jobs Act e voucher. Col cazzo. Maggiori investimenti nelle energie rinnovabili. Sto cazzo. Diminuire le spese militari? Sto cazzo. Più tutele e più diritti per le donne? Sto cazzo. Bravissima. Sushi dopo? Sì, volentieri. Beh. E in generale più sinistra e più democrazia all'interno del partito. Posso dirlo io? Prego. Sto cazzo! Camera cucchiara. Comunque ragazzi, grazie di essere passati, Poi magari un accordo lo troviamo. E mi raccomando, rinnovate la tessera del partito per il 2026. Scusate, ma almeno una caramella la possiamo prendere? No! Andrà ora in onda la rubrica di poesie di Valentina Blu e Nutrio Mannaro. Allora, giusto per... Allora, dovrebbero venire... Sono stati invitati anche in onda, così magari li sentiamo dal vivo prossimamente. Prossimamente forse, diciamo, l'imperatore presenzierà negli studi in diretta, no, dico. Vabbè, beh, assolutamente un onore, non gli mettiamo assolutamente fretta, è benvenuto. Adesso le poesie, Valentina Nutrio per la rubrica. Ciao a tutti, saluto gli ascoltatori di Radio ZAM. Lasciatevi trasportare da questa nuova onda poetica per ascoltare i miei scritti del giorno. Ho preparato due testi per osservare da vicino odio e amore in quella loro parentesi sadomasochistica. Odio e amore intrappolati eternamente in un letto di spine, confidandosi il segreto della vita. Benvenuti, buon ascolto, Valentina Cavera. L'amore. Nel rosa dei polpastrelli, al passo, dei giorni sospinti dalle stagioni, nell'umido di pioggia sull'asfalto, lumache ore cadono lente, pupille luci nella bufera, teso filo nel vortice fino a sera, profumo fiore, lenzuola di spine. L'odio. Imbattersi nella crudele bocca d'insidie, nell'occhio incastonato nella rabbia, colpito dalla mano della collera, imbavagliato dal silenzio, addescato dal male, abbandonato in un pozzo, acque velenose di un serpente, assordato da giganti rimpianti digrignanti, in un riflesso sadico concatenante, illimitato, delirante, irreversibile opposto. Un saluto ai cari amici di Radio ZAM e la pillola rossa. Vi scriviamo dallo stretto di Hormuz, dove stiamo guardando passare le petroliere, sperando che ne esploda qualcuna. Buona lettura poetica e pace al mondo, se sarà mai possibile. Ciao a tutti. E come dicono gli Alice in Chains, love, hate, love. Niente di sensazionale da segnalare nella grande metropoli settentrionale, né degli zombie che la popolano con lo sguardo fisso al cellulare. La memoria intasata da lugubri sogni che evaporano nelle strade di questa città invasata. Intanto il nuovo zio Paperone, col volto di una strega in delirio, brucia il mondo per i suoi progetti folli immobiliari. Niente di nuovo nel mondo occidentale, a parte che moriamo tutti ogni giorno e nulla ce ne cale, ed è questo il fascino del male. Oggi la strega cattiva è venuta a trovarmi nel sonno malvagio del pomeriggio, nel momento in cui un tenue pallido sole stava cambiando posto con una luna bruciante e il volto orrido della pallida vecchia diventava un cangiante caleidoscopio orripilante. Si occupa di farvi vedere la realtà e sono le cose brutte e le cose belle. Tra le cose belle, per i nuovi metodi di lotta, siamo andati a studiare uno sciopero avvenuto in Calabria all'epoca delle cooperative, quindi parliamo ai primi del Novecento, e questa cooperativa solidale calabra, che agli inizi del secolo si occupava di promuovere questo sciopero, cosa ha fatto? Si sono riuniti tutti quanti e hanno costruito una strada per tutti i villaggi che c'erano in giro per la zona dello sciopero. Cioè, hanno costruito un'opera pubblica nel tempo dello sciopero e con le forze dello sciopero, senza chiedere niente a nessuno, e hanno fatto qualcosa di buono. Alla faccia dello sciopero. Hai capito. I nuovi sistemi di lotta, in questo caso i vecchi sistemi I vecchi e i nuovi sistemi di lotta. Ma esatto. No, è perché abbiamo saltato una cosa. Scusate, vi mandiamo subito un altro intervento di ABC perché doveva collegarsi alle poesie. Dici, sommo imperatore. No, come sempre le apparenze ingannano, è lui che non la racconta bene, è una cosa morbosa di addirittura metterla su un piedistallo come se fosse una dea. Cioè, a Pasqua mi ha mandato il fatto che ha detto: sei tu la Cristo Sofia che risorge quest'oggi, e tutte cose di questo stampo. Cioè, è assolutamente una MDF-aggine completa che riesce bene a camuffare per scaricare il barile. Io gli ho dato tutto della mia vita, di quello che avevo per 8 anni, e questo qui, appena è caduto vittima di questa ipnosi, ha subito scritto: questo libro lo scrivo insieme a te. Partita già così la cosa, quando erano gli ultimi 2 mesi, poi te l'avrà detto che, non, che lui vorrebbe evitare di lavorare e che non ha più supporto in questo, perché chiaramente non si può più star dietro a uno delle 3 categorie dei libri di Sciascia, a proposito di chi ha fatto qualcosa di buono nella provincia di Agrigento. Sono stati compiuti fondamentalmente dei tradimenti della fiducia, di tutto l'impegno, di tutto ciò che è stato investito. Perché glielo anche dopo che lui continua a cercare di ottenere un'approvazione, se qualcosa di impossibile, perché quando tu divinizzi un essere umano stai compiendo qualcosa di psichicamente molto grave, quindi non è approvabile in nessun modo. Io ho detto chiaro, se fosse davvero amore lo approverei, e come. Quindi purtroppo anche lui è passato dal lato di quelli che cercano solo di raccontarla a proprio favore, quando in realtà purtroppo hanno tradito se stessi in maniera completa. C'è una Fiat Stilo nera targata CA770NE parcheggiata in doppia fila. Il proprietario è pregato di andare a spostarla. Non mi interessa passare la musica in radio, firmare file di carte di autografi con una maison, piazzare milioni di dischi di maglie nei punti CA, fare la vita da benestante borghese. Sentire, vivere solo per questo, con la puzza di merda sotto le suole. Non sono il Pinocchio di nessun burattinaio, voglio una Fiat. No macchinine griffate, voglio una Fiat. La vettura popolare, quella che aveva mio nonno, voglio una Fiat. Per mettere sotto i fascisti, voglio una Fiat. La Ferrari, non Lamborghini, solo la Fiat, solo la Fiat. Essere morti di fame, status sociale. Non conosco nessuno con più di 3 euro sul conto. Non vorrei mai essere una persona ambiente, piena di cacio, di soldi, di fama. Essere poveri in casa, mi bastano Fiat. Non macchinine griffate, teme una Fiat. La lettura popolare, quella che aveva mio nonno, voglio una Fiat. Per mettere sotto i fascisti, popolo alla riscossa, bandiera rossa trionferà, trionferà, avanti popolo alla riscossa, bandiera rossa. Posso permettere di permettere. come dicevano i Mutoid, Fix It Again Tony. Questi erano i Pancake con Voglio una Fiat. È la macchina popolare per eccellenza una volta, adesso stravenduta agli americani. Allora, siamo sugli ultimi minuti prima di mandare la sigla. Allora, probabilmente è possibile che al 25 aprile facciamo una presenza. Pillola rossa. Pillola rossa. Potrebbe essere, non è sicuro, insomma, si vede. E ricordiamo di questo 25 aprile, facciamo un appunto su da dove è nato, insomma, com'è nata un po' questo concetto di liberazione. Vadi. Un po' riferita al passato, perché e quindi si parte tutto da un armistizio, giusto per ricordare, perché magari uno pensa che c'è stata una liberazione direttamente così di punto in bianco. Forse non tutti sanno che vada rapido, spedito. Che è partito da questo armistizio tra l'Italia e gli alleati, che è stato a settembre del 1943. Orchestrato per mesi prima attraverso gli eserciti, eccetera, eccetera, contatti in Africa, in Portogallo e via dicendo, la Casa Reale Italiana e Savoia. Esatto, una volta firmato e detto, una volta firmato gli tedeschi hanno occupato il territorio con i fascisti annessi e connessi. Ragazzi, ci sono i tedeschi alla porta e vi dobbiamo salutare. Sì, abbiamo fatto un riassunto breve da ripassare sul libro. Vi stiamo mandando Ulisse, arriva Ulisse. Questa è la sigla e dopo Ulisse. Siamo ancora qua, viva le radio libere, la verità. Radio Popolo alla riscossa, pillola rossa, pillola rossa. Radio libere alla riscossa, pillola rossa, si ascolterà mercoledì, zam zam.